Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. 13ª puntata. Lettera di convocazione allo stage era arrivata in una bella mattina di primavera. In fondo se lo aspettava. Gli ultimi mesi erano stati densi di ottimi risultati e di progressi costanti. La felicità era arrivata intatta a dilatarle i pori. Era partita subito per un allenamento di medio nel parco cittadino, con l'organismo acceso dall'ossigeno e dall'orgoglio. Poi erano iniziati piccoli disturbi, calo verticale dell'appetito, abbassamenti di pressione, interruzione del ciclo. Clara non aveva drammatizzato, intuiva che pubblicizzare troppo questi dettagli sarebbe stato controproducente. Erano stati 65 ragazzi giudicati meritevoli di partecipare al raduno. I minimi di partecipazione quell'anno erano stati meno rigidi e selettivi. La nuova dirigenza puntava sui giovani. Il sistema piramidale che avrebbe distillato i futuri campioni poteva poggiare su una base ampia, allargata a ragazzini ancora grezzi. Per la prima volta i tecnici avevano praticato la rotazione. Ogni atleta avrebbe frequentato una specialità per la quale non era stato convocato. La maggior parte dei ragazzini aveva scelto la più tecnica e acrobatica, di certo la più misteriosa, il salto con l'asta. Clara non amava le sorprese, l'improvvisazione, e non aveva scelto nessuna specialità alternativa. Aveva le idee chiare e nette, lei. La sua vita sarebbe stata il mezzo fondo nella prima parte della carriera e la maratona nell'età più matura. Non doveva concedersi distrazioni, lo sport non era un gioco, era impegno e specializzazione. Costruzione e crescita. I tecnici erano per lo più ex atleti. Alcuni ancora gareggiavano, ma erano comunque entrati nella parabola discendente dell'efficienza fisica e sentivano il bisogno istintivo di passare il testimone alle nuove generazioni. La federazione pagava poco e i contratti erano limitati nel tempo. Era sempre la passione per quello sport ingrato e feroce a fare da motore. La prima notte Clara era stata colta da un attacco d'asma. Il petto pareva una fisarmonica, le pareti dei polmoni si appiccicavano, poi si era accartocciata a terra, scossa da convulsioni. La compagna di stanza si era messa a piangere, silenziosamente, senza avvertire nessuno. Quando si era ridestata dalla paralisi, Clara aveva ripreso a respirare regolarmente. L'aveva pregata, poi minacciata, di non dire nulla a nessuno. Le avrebbero fatto abbandonare lo stage, intimando ai genitori di sottoporla a test clinici. La lunghista si era dimostrata emotivamente instabile e per nulla riservata. Già durante la colazione la notizia era circolata di tavolo in tavolo, fino ad arrivare alle orecchie di Roberto e Giulio. Nei giorni seguenti Clara si era limitata a sedute di corsa a ritmi medi su percorsi collinari, con variazioni di velocità della durata di un minuto. Nessun test cronometrico in pista. Era stato Roberto, il responsabile del settore mezzofondo, a darle il foglietto con i riferimenti di uno specialista pneumologo, uno molto bravo. Era l'ultima cena, la festa di chiusura dello stage. I giovani atleti esplodevano di ormoni e adrenalina. Anche i più timidi e le meno carine si concedevano piccoli show e riti propiziatori. Erano comparse anche bottiglie di superalcolici. Da quella strana località che pareva fuori dal mondo, ripartivano pieni di entusiasmo per il futuro. Per Clara era la fine. Dopo gli svenimenti erano comparsi attacchi d'asma e infine una piccola crisi epilettica. Digitando in un motore di ricerca i nomi dei partecipanti allo stage, emergeva che pochi sarebbero sopravvissuti alle intemperie e agli ingolfi del tempo. Nessuno avrebbe partecipato a eventi di carattere internazionale, campionati europei, mondiali, olimpiadi. Solo rappresentative giovanili e gruppi sportivi militari. 3 morti in altrettanti incidenti automobilistici, 2 alcolisti, 1 eroinomane. Roberto quella sera aveva consigliato a Clara di sospendere l'attività agonistica e gli allenamenti pesanti. Aveva già avvertito i suoi genitori con una breve telefonata. Giulio, al lato opposto della sala mensa, guardava la scena. Clara non si strappava i capelli, non sbatteva la testa al muro solo perché non riusciva a comprendere il senso concreto di quelle parole. Ascoltava, mansueta, seduto in un angolo del ristorante pizzeria, le lanterne, come si ascolta un parente preoccupato per la salute di un congiunto. Era stato il padre ad accompagnarla alle prime podistiche non competitive, corse senza allenamento, col sorriso sulle labbra e con una facilità africana. Poi il professore di educazione fisica delle medie l'aveva strappata alla pallavolo, troppo minuta, diceva. L'aveva convinta a fare qualche prova cronometrata. La pista non le piaceva, amava l'erba, i saliscendi sugli argini del fiume. La pista era un dovere, era il lavoro. L'atletica non era un gioco, non era piacere, era un rilascio lento di endorfine benefiche dopo una sofferenza necessaria. Dopo pochi mesi aveva vinto i campionati studenteschi nelle due specialità del mezzofondo, ma erano iniziati subito i problemi di anemia e i disturbi dell'appetito. Una sera era svenuta in bagno, aveva sbattuto il mento sul bordo della vasca e i suoi 37 chili si erano accartocciati in posizione fetale sulle piastrelle blu mare. Era rimasta in ospedale 18 giorni, trasfusioni e vitamine del gruppo B, una leggera cura ormonale che le aveva irrobustito la muscolatura, fatto comparire una peluria scura sugli avambracci e delle basette ribelli. Ai tempi si faceva uso di ormoni anche sui giovani pazienti con difficoltà di accrescimento e l'anoressia non aveva dignità di malattia. Il primario aveva parlato solo con i genitori. La madre guardava oltre le tapparelle azzurre. Gli occhi vivaci del padre schizzavano senza indugiare più di qualche secondo su oggetti e persone. Clara aveva colto solo spezzoni di frasi e parole smozzicate. Non le fregava nulla di nulla. Voleva riprendere a correre. Dopo i primi giorni di cure si sentiva forte e irrequieta come un animale. Perdere giorni di allenamento, perdere condizione atletica, faceva lunghi nel corridoio dell'ospedale d'esercizi ginici in ripetizione estenuanti. La caposala era un monolite di carne pallida, veniva dal meridione e formulava rimproveri incomprensibili. Clara non voleva diventare una caricatura come quella, avrebbe preferito morire. Lo specchio le restituiva una figura anche troppo ingombrante, doveva ancora arrivare all'essenzialità. Doveva tagliare l'aria, invalidare le leggi della gravità, doveva bloccare lo sviluppo del seno e dei fianchi, magari concentrandosi mentalmente. La strada verso la perfezione era solo iniziata e la caposala le ordinava di tornare in camera emettendo suoni gutturali. Clara non sopportava quello che non capiva. Come poteva ridursi così una donna? Doveva essere molto più giovane di sua madre. L'ultimo giorno prima di essere dimessa l'aveva aspettata alla fine del turno e l'aveva resa partecipe del suo disprezzo. Senza alzare la voce, senza tradire emotività, le aveva scagliato una maledizione. Morirai soffocata dal grasso. La caposala si era portata una mano alla bocca e aveva estroflesso due occhi giallastri da pesce tropicale malato. Non aveva detto una parola mentre premeva il bottone del piano terra. Dopo l'ospedale, Roberto si limitava a farle fare corsa blanda e pochi e lunghi trasversali all'interno del rettangolo erboso. Non aveva più parlato di gare e nominava insistentemente un certificato di idoneità agonistica da rivedere. Ne parlava con il padre di Clara che diceva sempre di sì. Il padre di Clara diceva sempre di sì a tutto. La sua vita era un fiume impetuoso di sì, che lo stava sommergendo. Sì ai colleghi di lavoro che gli chiedevano petulanti cambi di turno. Sì alla moglie che combatteva una battaglia mortifera contro la depressione. Sì a Clara che non poteva stare senza l'atletica. Sì a chi al campo non la voleva più rivedere. Sono tornato nello studio del doctor. Nessuna prenotazione, nessuna esigenza particolare. L'infermiera mi ha fatto entrare dopo qualche esitazione e una telefonata rapida. Dalla luce cattiva dei miei occhi ha intuito che non era il caso di formalizzarsi. Il doctor è in deriva guru New Age. Il camice bianco è sostituito da una specie di tunica etnica. Non saprei definire l'area geografica di riferimento. Fuori dall'Europa per me è tutto molto confuso. Anche il telaio degli occhiali è cambiato. Ha una montatura più bizzarra e giovanile. Oramai lo odio apertamente. Non esordisco con frasi cordiali, rinuncio al tu formale. Mi pianto subito davanti alla mia foto preferita, quello dell'Iron Man. È il caso di bombare gente così? è sicuro di essere migliore di loro? Perché non riesce a essere più tollerante? Il suo approccio mentale la danneggia, è introverso, ha i pori occlusi, è sul filo della depressione. La depressione innesca meccanismi che minano il fisico. Si abbassa il livello di testosterone, si disperde l'assimilazione di vitamine e proteine. Perché non mi risponde? A volte a pensar male si sbaglia, vive di preconcetti che le precludono ogni conoscenza. A queste persone non interessa la prestazione assoluta. Vogliono continuare a sprigionare energia, vogliono allontanare la vecchiaia e le malattie. La roba che prendono favorisce l'insorgenza del cancro e di altre patologie. Io ho dovuto prendermi il rischio, ma questo notaio che bisogno aveva? Le ripeto che sbaglio. Con lui ho lavorato esclusivamente a livello psicologico. Con gli atleti più evoluti lavoro su due binari, quello psichico e quello farmacologico. Ho innescato processi che sviluppano e alimentano la bioenergia. Rimuovo traumi e tensioni muscolari che bloccano il transito della forza vitale. Ha mai sentito parlare delle teorie di Wilhelm Reich? Medico sportivo? Uno psicologo austriaco? Satana mi preservi da tutti i ciarlatani. Lei ha troppe sicurezze e giudica tutto con superficialità. In fondo siamo solo delle batterie. Si accumula energia per poi ridistribuirle in funzioni vitali. Il mio obiettivo è quello di consentire la ricarica. Cristo, detesto questo genere di cazzate da santone. Io ero venuto da lei solo perché mi stavano dando farmaci taroccati per ragioni incomprensibili. Non credo che i prodotti che prende negli ultimi tempi siano un effetto placebo. Penso che il suo organismo non abbia ricettività. Potrebbe spegnersi in pochissimo tempo. Non rischia solo cali nelle prestazioni atletiche, rischia la malattia. Lei è chiuso in se stesso, ha movimenti trattenuti, reprime le emozioni, esprime solo severità e rancore. I suoi sorrisi sono poco più che smorfie di dolore, ha respiri cortissimi, altri sintomi rivelatori. L'ho osservata bene, in lei ogni forma di vitalità è destinata a esaurirsi. Nemmeno il ricorso al doping la salverà. Non è un caso se dopo i primi risultati il miglioramento si è interrotto. Rischia di avere solo gli effetti collaterali e nessun beneficio. I farmaci possono fare molto, ma l'individuo rimane il punto centrale. Io lavoro sull'uomo prima che sull'atleta o sulla chimica. Non so se lei è la persona giusta per me. Non credo lo sia mai stato. Credo di no. Lei è senza speranza. Come uomo, non come atleta. Può essere. Ma le foto che ha alle pareti mi fanno orrore. Insetti impazziti che agitano le zampette per rimuovere l'idea della morte. Se pensa che sia volgare muovere le zampette, lei è già morto. Almeno i morti dovrei lasciarli stare. Ma oggi sto male, predisposto al peggio. Ho solo pensieri tetri. Non corro da 4 giorni, senza motivo. Non mi era mai accaduto prima, nemmeno la febbre mi aveva bloccato. Al massimo mi era successo di interrompere gli allenamenti il giovedì, poi il lunedì ero di nuovo in pista, lievemente indebolito e in debito di emoglobina, ma con una rabbia positiva che suppluiva all'indisposizione. Dormo 2 ore a notte, tengo le tapparelle ben chiuse e ignoro orologi e televisione. Nessuna chiamata non risposta si è accumulata nel telefonino, nessuna mail. Sono ricominciati i gonfiori, noduli ghiandolari, lineamenti del viso leggermente deformi. La tachicardia mi fa sobbalzare appena prendo sonno. Riesumare il ricordo di un suicida forse non è sciacallaggio. Si fanno i conti con il proprio tempo residuo per interposto decesso. La morte è dominio comune. Jasmine era stata adottata da una famiglia italiana all'età di 3 anni. Nelle categorie giovanili aveva vinto tutto. Prima nelle specialità veloci, poi via via fino ai 1500 metri. Risultati importanti anche nella categoria assoluta. Un argento ai campionati italiani e 3 maglie azzurre. 20 titoli regionali, compresi quelli fuori dalle piste. I terreni insidiosi delle campestre invernali. Fango argilloso che ti incolla le scarpette chiodate. Pozzanghere che ti fanno arrivare l'acqua gelida alle caviglie. Partenze affollate, centinaia di atlete al via. Metri bruciati nervosamente per prendere bene la prima curva e non rimanere imbottigliati. Le riviste specializzate sono piene di sue foto. Prototipo splendido di campionessa in gestazione, da maneggiare con cura. Non so quale sia il limite da superare perché la curiosità si faccia patologica. per far posto all'ossessione. I ritagli di giornale sono ordinati come in un solitario sulla scrivania. Sono armato solo di un abiro. PC spento, internet mi ha aiutato poco nelle ricerche, avaro di dettagli, rispettoso del dolore delle persone a lei care. Nessun riferimento alle motivazioni. Anche Jasmina, come Clara, aveva partecipato a raduni estivi organizzati dalla federazione. Una spiaggia, il mare alle spalle, volti sorridenti, i soliti allenatori ai lati estremi della foto di gruppo. Giulio e Roberto, leggermente invecchiati rispetto alla foto con Clara. Solo loro testimoniano l'eternità dell'atletica. I ragazzi passano, prendono altre strade, lontane dallo sport, che rimarrà solo uno sbiadito ricordo. Pochi daranno seguito a quei giorni. In alcuni casi sarà la cosa migliore realizzata nella loro vita. Sono i primi della loro generazione in qualcosa, ma al momento dello scatto non ne hanno coscienza. Accasciati ai piedi di Jasmina ci sono due gemelli biondi con il naso aquilino e i tratti nobili, fenicotteri destinati al salto in alto. Quello con i capelli più corti arriverà 10 anni dopo ad un quinto posto in un campionato mondiale dal contenuto tecnico deludente. Se ne rammaricherà al microfono del giornalista Rai. La misura per il podio era alla sua portata, un'occasione che non si ripresenterà. Jasmina in piedi è la più bassa, ha capelli crespi e una muscolatura possente, le spalle sono ben definite, le cosce due colonne affusolate. Nella crescita dovrà stare attenta al peso corporeo. Per un atleta che aspira ad una carriera professionistica è una piccola condanna rimanere sotto l'1,70, da scontare più avanti, quando il livello delle competizioni è internazionale. L'allargamento dei fianchi, una maledizione. Un giornale locale parla di un ponte sulla ferrovia. Ho scritto alla testata e per una cifra modesta mi hanno spedito a casa il numero in questione. La stessa foto che ho trovato su internet. È in tenuta atletica, ai bordi di una pista. Chi firma l'articolo non avanza ipotesi sulla motivazione del gesto. Il dolore dei genitori è da rispettare. L'atletica è così lontana dalla morte, completamente fuori luogo, e la morte si fa incomprensibile e testarda, come non mai. Penso a Jasmina. Forse non c'è nulla di sbagliato nell'acquistare un pacchetto tutto compreso per una maratona internazionale. Nell'entusiasmo che pervade chi affronta queste gare con passo incerto e ritmi turistici, c'è qualcosa di sano, di pulito. Qualcosa che sfugge alla mia natura votata al malumore e al fastidio. Nel giorno precedente i maratoneti si concederanno un pranzo ricco di carboidrati nel ristorante convenzionato. Le discussioni, le recriminazioni, le paure della vigilia. Una frettolosa visita a qualche monumento, forse un museo. Il quartiere dello shopping che non sfugge alle mogli munite di carta di credito. I consigli degli atleti che compongono lo staff tecnico faranno da benzina. Gli aneddoti riferiti ai loro passati fasti saranno un faro luminoso. Non potranno raccontare tutto, ma fa parte del gioco. Penso a Jasmina, che voleva essere un atleta professionista e che si è persa da qualche parte, in un territorio ostile cui confini conosco. Penso alle braccia al cielo levate di chi è felice per il solo fatto di aver terminato tutti e 42 chilometri della maratona. Penso che sono stanco di correre. Penso che sono stanco di tutto. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.